destra e la sinistra sono mani di uno stesso corpo. Chi dice che non esistono è un cieco oppure è zoppo. Chi vuole uscire dal fango e sputa su tutto il mondo dovrebbe invece operare per gli Stati Uniti del mondo. Cosa direbbero i partigiani? Cosa scriverebbe nel suo diario Anna Frank? Cosa direbbero i Gandhi, Nelson Mandela e tutti i santi? Ci si confronta con chi ha idee diverse e si combatte l'ignominia. Da qualunque parte essa venga, la dignità è una dritta via. La strada lungo la costa brilla di propria luce. La notte non porta consiglio a chi ha il cuore in pace. Nel bar del lungomare raccontano la storia di un uomo partito a cercare sirene e tesori, ma non è mai più tornato. Cosa direbbero i partigiani? Cosa scriverebbe nel suo diario Anna Frank? Cosa direbbero i Gandhi, Nelson Mandela e tutti i santi? Ci si confronta con chi ha idee diverse e si combatte l'ignominia. Da qualunque parte essa venga, la dignità è una dritta via. Non ti vendicherò, disse il pescatore. Non aveva pescato più un pesce. Una vita tra vino e burrasche, ma aveva ciò che molti non hanno. Distingueva, difendeva il suo sogno, nella destra una spina di ferro, nella sinistra una rosa di maggio. Cosa direbbero i partigiani? Cosa scriverebbe nel suo diario Anna Frank? Cosa direbbero i Gandhi, Nelson Mandela e tutti i santi? Ci si confronta con chi ha idee diverse e si combatte l'ignominia. Da qualunque parte essa venga, la dignità è una dritta via.